Allora, ci troviamo in diretta, abbiamo interrotto la rassegna stampa per una notizia che ci è arrivata adesso e siamo in collegamento con Antonello. Ciao Antonello, ci senti? Sì, vi sento. Buongiorno a tutti. Io sono Antonello Tidì, amminatore Carbosucis, e oggi mi trovo qua nella vecchia miniera di Carbonia, incatenato, per protesta. Incatenata una transenna, perché oggi in questa miniera, in questa sala e nel Sugis ci sarà la presenza del ministro Passera e del ministro Barca, e quindi è stato transenato tutto e ci sarà questa passerella di questi ministri che naturalmente prometteranno delle cose per continuare a prendere in giro il popolo sardo. Quindi io per protesta mi sono incatenato, perché il ministro Passera sembra il medico che vuole curare il malato, però non ha non ha le medicine. Diciamo. Sì. E quindi inoltre Passera rappresenta, come ben sappiamo, non la classe lavoratrice, ma rappresenta bensì i padroni, i poteri forti, sì, le banche, l'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale. Quindi io mi sono incatenato per protesta, perché il popolo sardo è stanco delle promesse, delle prese per il culo, della colonizzazione, e soprattutto questa venuta di Passera è un'ulteriore illusione per tutti i lavoratori in crisi nel Sulcis, che tentano a finire il mese con i miseri stipendi, e molti di loro ormai sono stati licenziati o sono in cassa integrazione. Senti, volevo chiederti, sei solo in questa iniziativa o ci sono, insomma, ti sostengono altri sì, compagni sì, di lavoro? Allora, l'unico incatenato sono io, però qua sono presenti centinaia di persone e sono lavoratori di tutte le fabbriche in crisi, in più anche artigiani, commercianti, e insomma il Sulcis intero, che è sensibile a queste problematiche. Ecco, quindi per ripeterlo, ascoltatori e ascoltatrici, tu ti sei incatenato esattamente dove, insomma, proprio per farlo capire bene a chi ci Guarda, ascolta? Ci sono delle transenne proprio davanti al locale dove si svolgerà questo convegno con Passera e Barca. Ecco. E io mi sono incatenato qui in queste transenne anche perché c'è un imponente forze di polizia, ci sono? Sì, sì, parecchia polizia, parecchia Digos, e quindi poi non so più avanti come andrà a finire la cosa, comunque vi terremo aggiornati. Comunque per il momento tu stai tranquillo, non ti hanno, insomma, fatto niente? No, per il momento è tutto tranquillo. Va bene. Anche perché io sono dietro la incatenata alla transenne, non sono dentro una ipotetica linea rossa che hanno formato, capito, le forze dell'ordine. Quindi o ti portano via con tutta la transenna o tu da lì non te ne vai insieme agli altri compagni. Certamente. Certamente. Va bene Antonello, in bocca al lupo per questa mattinata e ci risentiremo senz'altro. Ciao Va Antonello. Bene, vi ringrazio e vi saluto anch'io. A presto. Ciao. Ciao.